si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare, insieme fino alle 10 di questa mattina. Un'occhiata tra poco ai giornali di oggi, una rassegna stampa ovviamente caratterizzata dai quattro gravissimi attentati avvenuti ieri in tre continenti. Poi dopo la rassegna stampa che ci porterà fino al giornale radio delle 8, cominceremo con il programma, i nostri approfondimenti. Cercheremo di non perdere la calma, di non perdere l'uso della ragione e di andare a vedere, per esempio, laddove il terrorismo vuole dividere, dove invece si marcia uniti, in Sicilia, a Catania, dove c'è la più grande moschea del Mezzogiorno in Italia, comunità cristiane e comunità musulmane impegnate insieme nell'aiuto alle famiglie più povere. Di questo parleremo più avanti, adesso però cominciamo, come detto, con la rassegna stampa e giornale di oggi. Vai. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora vi ricordo subito anche i nostri contatti, se volete interagire con noi in tempo reale, fare domande, commentare quello che sentite, ci trovate su Facebook, la pagina è Si può fare trattino Radio 24, l'account su Twitter è @ Si può fare 24, il mio account personale è @ Ale Maurizi, poi c'è il 349-238-6666 se volete scriverci un SMS. Più avanti, naturalmente, come ogni sabato e domenica mattina, ma come tutte le mattine, come tutti i giorni su Radio 24, apriremo anche il numero verde. Cominciamo con una carrellata di titoli. Corriere della Sera, terrore in tre continenti, il Ramadan di sangue, scrive Repubblica, l'onda globale del terrore è il titolo della Stampa, oppure ancora il venerdì del terrore globale, scrive il Messaggero, la rabbia senza orgoglio, apocalisse islamica, e invece il titolo scelto da Libero. Il califfo colpisce dove vuole, scrive il Fatto Quotidiano, insomma titoli a nove colonne si diceva un tempo, su tutti i giornali, assassini islamici, i maledetti, scrive il giornale, giornata di terrore in Tunisia, strage sulla spiaggia, massacrati 37 turisti, nel frattempo però le vittime sono diventate 39. Cominciamo a leggere qualche approfondimento, qualche articolo. Insomma, se noi in Europa stavamo ancora pensando che il tema dell'immigrazione fosse il tema dominante, lo scenario internazionale, quello che ci preoccupa, ci angoscia di più, è bastata una giornata come quella di ieri, dove sono morte forse qualche centinaio di persone in tutto, a farci capire che no, non è così. Il vero problema, il vero nemico sulla scena internazionale resta sempre lui, il terrorismo. E quelli dell'ISIS ieri ce l'hanno fatto capire molto chiaramente. Andiamo per esempio sul Corriere della Sera, dove si fa un riepilogo macabro purtroppo di quello che è accaduto. Il portavoce dell'ISIS aveva ordinato: trasformate il Ramadan in una calamità per gli infedeli, dalla Tunisia alla Francia, dal Kuwait alla Somalia, gli estremisti uccidono in moschea, sul lavoro, in spiaggia. E in effetti anche gli obiettivi scelti sono... difficile pensare che non ci possa essere dietro una regia o quantomeno un coordinamento dietro tutto questo. Si sceglie di colpire il turismo in Tunisia, la principale forse industria di quel paese, e il ponte di collegamento tra un paese musulmano moderato e l'Occidente, il turismo appunto. Si sceglie di colpire un'industria del gas in Francia, si sceglie di colpire una moschea di sciiti, la minoranza musulmana in Kuwait, e si sceglie di colpire una base militare dell'esercito africano, l'Unione Africana in Somalia, altro luogo, terreno di guerra civile e di tensioni religiose e non solo. Ripeto, difficile pensare che non ci sia dietro una regia. Forse la casualità del Ramadan unito all'anno che è trascorso dalla proclamazione del califfato. Vediamo per esempio un primo commento. Intanto no, per quanto riguarda la Tunisia, scrive Il Corriere, l'estate di paura di un paese sdoppiato, sconti, sole, concerti e quell'allarme via SMS. Era Madame, non volate Tunisair. Era cominciata con un SMS sui cellulari della Tunisia e lì per lì sembrava solo una catena iettatoria, di quelle che girano ogni tanto così casualmente. Poi però ci sono messi anche i social network. Dal 5 giugno attenti alla Tunisia, scrivevano tutti. E giù le voci, leggende metropolitane, qualcuno si era chiesto, se ne sa di più? Per 20 giorni è stato postato di tutto, allarmi rossi, profezie nere, di tutto. Finché non è intervenuto il governo tunisino a garantire che era tutto a posto. Finché però 15 piloti della Tunisair, la compagnia aerea della Tunisia, non si sono inspiegabilmente assentati dal lavoro giorni fa. La compagnia aerea ha detto che non si trattava di uno sciopero. I retroscena si sono sprecati. Perché questi 15 piloti della Tunisair non sono andati a lavorare? Perché probabilmente con tutti questi allarmi che giravano avevano FIFA, avevano paura. Non erano loro l'obiettivo del prossimo attentato, non era un aereo, ma era la spiaggia di Sussa. Ieri ovunque si immaginava, si capiva, si diceva a mezza voce, non si vuol dire ad alta voce perché chiaramente preoccupa e dispiace per un paese come la Tunisia che questo possa essere il colpo di grazia definitivo per il turismo in quel paese, un turismo che ovviamente alimenta anche l'economia di quel paese. Sentiamo un primo commento, per esempio, leggiamo di Monder Kilani, antropologo tunisino di nascita, svizzero d'adozione, che dice quali sono le cause degli attentati di ieri a Sousse in Tunisia. Il primo, dice, la re-islamizzazione di parte delle società da parte di gruppi fondamentalisti proliferati all'indomani delle primavere arabe. Secondo luogo, il rientro in patria di molti salafiti jihadisti tunisini che hanno combattuto in Siria e in Iraq, perché sono moltissimi i foreign fighters partiti proprio dalla Tunisia per andare a combattere in Siria e in Iraq. Capite che queste persone, quando se ne contano 3.000 in Tunisia, quando poi tornano nel loro paese, difficile che si reinseriscano in una vita normale, uno che è andato a combattere una guerra in Siria o in Iraq. In terzo luogo, dice Kilani, la causa dell'attentato di ieri è che la Tunisia è nel mirino delle forze straniere che non vedono di buon occhio quello che è diventato un modello. Stato e istituzioni funzionano, sindacati e associazioni femminili sono attive. Infine, il collasso della Libia facilita la circolazione di armi e terroristi. Perché però migliaia di tunisini combattono in Siria e in Iraq? Già, perché in un paese moderato, tranquillo, dove le cose sembra che funzionino come la Tunisia, ci sono 3.000 giovani che vanno a combattere la guerra del califfato in Siria e in Iraq? I jihadisti, dice Kilani, offrono ai giovani emarginati sia denaro sia un modo di vendicarsi di una società che li ha messi in disparte. Per esempio, sono tantissime le cose che si possono leggere. Andiamo in Francia per l'attentato alla centrale del gas. L'ultima immagine di Yassine Sali è quella di un padre di famiglia che gioca in porta la partitella dei bambini del palazzo. L'ultima sera i suoi condomini lo hanno visto in questo cortile di cemento e terra battuta adiacente a un parcheggio. Incitava e dirigeva i più piccoli, tra i quali c'erano i suoi due figlioli. Al tramonto si è ritirato per la preghiera, siamo a Ramadan ovviamente, nell'appartamento dove viveva da pochi mesi. Nessuno lo ha più visto. Nella sua vita si narra dell'incontro con un predicatore conosciuto a Pontarlier, chiamato il Grande Ali. Era un convertito all'Islam, un francese convertito all'Islam, e si faceva notare per le parole da fanatico che gli valsero il soprannome di Grande Ali, ma soprattutto un decreto di espulsione dal paese. Questo predicatore era entrato in qualche modo in contatto con Yassine Sali e lo aveva probabilmente condizionato. Poi c'è sempre una banlieue da raccontare come tappa finale, una periferia come tappa finale del viaggio, e questa volta è la periferia di Lione, dove quest'uomo viveva con la sua famiglia una vita apparentemente tranquilla. Per esempio c'è anche chi invece, come Gilles Kepel, un esperto di mondo arabo francese, invita a leggere gli attentati di ieri quasi come un segnale di debolezza. È un'intervista più rassicurante Dice: intanto la nostra vita quotidiana resta sicura, è la fragilità che è rappresentata dai media dopo attentati come questi che emerge. L'ISIS vuole proprio questo, creare paura in Europa e mobilitare gli europei contro i musulmani per provocare radicalizzazione tra i musulmani stessi, una loro reazione, infine una guerra civile. Mi lasci però dire che questi attentati nell'anniversario della nascita del califfato, dice Gilles Kepel, dimostrano sia la volontà di festeggiarlo che quella di farsi vedere capaci di colpire ovunque in un momento nel quale hanno vari problemi. Sta dicendo che si tratta anche di un segnale di paura? Hanno bisogno di non mostrarsi indeboliti. Ci sono l'Arabia Saudita, il Qatar, la Turchia che finanziano i gruppi che stanno tenendo il confronto con l'esercito islamico anche contro Assad in Siria, e l'ISIS è fermo a Palmira in questo momento, sul retro della sua avanzata verso Damasco. Ha perso il controllo della frontiera turca, quindi molti guadagni che derivano dal contrabbando. Quindi l'ISIS avrebbe perso il controllo di una parte della Siria che prima dominava, la parte di al confine con la Turchia, dalla quale passa il contrabbando e che quindi è anche una fonte di finanziamento importante per l'esercito islamico. I raid degli eserciti occidentali stanno avendo successo, li guidano i microchip piazzati da spie che 2 giorni fa, in un video diffuso solo in arabo, venivano punite con immersioni in una gabbia sott'acqua. Abbiamo visto anche questo, sì, perché nel mirino quella volta c'erano le spie che stanno aiutando gli eserciti occidentali a piazzare, appunto, anche attraverso tecnologie con droni e quant'altro, serie di bombe che stanno minando le postazioni dell'ISIS in Siria. Quindi, secondo Gilles Kepel, questi attentati potrebbero essere anche letti come una reazione a un indebolimento dell'ISIS, speriamo, sugli scenari di guerra. Ci fermiamo un attimo per il traffico, poi torniamo ancora con i giornali di oggi, tra pochissimo, vai. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Dal secolo XIX apprendiamo anche della storia dei Liguri presenti in Tunisia. 40 Liguri nell'inferno, preghiamo non tocchi a noi. Un gruppo di lavoratori, si tratta di questo, dell'Ansaldo Energia, si trova nella zona dell'attentato. A Sousse gli italiani costruiscono una centrale termoelettrica, non andiamo più a pranzo, ce lo consegnano direttamente all'interno del cantiere. Poi le testimonianze, ci siamo contati per avere la certezza di essere essere tutti al sicuro, poi siamo rimasti in cantiere. Le forze speciali hanno subito circondato tutta l'area in cui operiamo, sono tutti al sicuro. Sulla stampa invece un'altra notizia abbastanza sorprendente, devo dire, che si apprende che dei 3.000 foreign fighters che sono partiti dalla Tunisia per andare appunto a combattere in Siria, in Iraq o anche in Afghanistan, ma soprattutto in Siria e in Iraq, 1.000 provenivano proprio dall'area di Sousse, cioè uno dei luoghi del turismo dove c'erano questi resort. Forse bisognava dirlo ai turisti di non andare a Sousse, città dalla quale provenivano 1.000 di questi combattenti che poi sono rientrati in Tunisia. E ripeto, è difficile, dopo che uno è andato a fare la guerra insieme all'ISIS in Iraq o in Siria, tornare in Tunisia e fare una vita normale. Forse queste persone andrebbero fermate anziché conteggiarle, e forse bisognava anche dirlo ai turisti di non andare a Sousse, non lo so. Questo è quello che scrive oggi la stampa, un retroscena. Antonella Rampino, una città fabbrica di jihadisti, 1.000 partiti da lì per la Siria. E ripeto, è abbastanza incredibile. Che altro ancora su questo fronte? La cronaca: il mio uomo mi ha fatto scudo, ha preso 3 pallottole, è vivo. Questo è il racconto di una ragazza rimasta illesa. E insomma, di racconti ce ne sono tanti da questo punto di vista, ma nei pochi minuti che restano voglio leggervi anche qualche altra notizia dal giornale di oggi, perché ci sono delle notizie importanti. Per esempio, Allora, se le trovo i giornali, ecco qui. Allora, intanto l'America rende legali le nozze gay, lo storico verdetto della Corte Suprema. Obama dice l'amore è uguale per tutti, storica decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti con 5 voti a favore e 4 contrari, però, quindi un voto a maggioranza, ha dato il via libera ai matrimoni tra persone dello stesso sesso in tutti e 50 gli stati americani. Una decisione veramente che segnerà la storia, almeno in quel paese, ma visto insomma l'importanza anche dell'America, credo nel mondo. Poi, vabbè, questi sono temi di casa nostra. Campania ha sospeso De Luca. Ieri il Consiglio dei Ministri ha varato questo decreto. Tutti si aspettavano un decreto che rivedesse la legge Severino, quindi il tema della sospensione, dell'incandidabilità, dell'inconferibilità, questi termini tecnici sotto i quali si cela, diciamo, la questione dei politici condannati che possono o non possono ricoprire ruoli politici, per l'appunto. Invece non è arrivato un decreto di revisione della Severino, ma un decreto di sospensione dello stesso presidente eletto della regione Campania, De Luca. Adesso è difficile capire cosa accadrà, perché dopo il parere dell'Avvocatura dello Stato, che ha aperto a questo decreto del governo sulla sospensione di De Luca, può succedere che De Luca può ricorrere contro questa sospensione prima di tutto, oppure può scegliere di andare avanti e nominare la giunta e il vicepresidente, perché la stessa Avvocatura dello Stato ha detto che la sospensione non può provocare la paralisi delle istituzioni campane. De Luca infatti dice vado avanti, reagisce attaccando il presidente della Campania che dalle 21.30 di ieri sera si trova in una situazione senza precedenti, sospeso dal premier Renzi, è però nel potere di firmare gli atti necessari e dunque anche nominare la nuova giunta che dovrà governare la Campania, e anche quel vicepresidente che poi dovrà tenere lo scettro nei mesi 18 probabilmente in cui lui resterà sospeso. Immigrati, compromesso europeo, altra notizia ce la ricorda in prima pagina La Stampa, perché nella notte è stato raggiunto l'accordo sui profughi ridistribuiti, 40.000 profughi che siriani, eritrei, di altri paesi in guerra che si trovano in Grecia e in Italia in 2 anni in altri paesi europei, anche se l'Est Europa su questa cosa resta critico. Il Sole 24 Ore invece ci ricorda che nel Consiglio dei Ministri di ieri sono state prese anche delle decisioni che riguardano il fisco italiano. Trovate tutto su edizione di oggi del Sole 24 Ore: sanzioni, liti, riscossione. Ecco come cambia il fisco. La soglia penale per chi non versa l'IVA passa a 50.000-200.000 euro. Insomma, trovate tutto sul Sole 24 Ore di oggi. Ci fermiamo qua con la rassegna stampa, ci ritroviamo subito dopo il giornale radio delle 8, a più tardi, a tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Proteggi la tua casa. Index isola, impermeabilizza e risana in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. And no, I won't be no stick, make your silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Bass, bass, bass, bass. Hey. Buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno e buon sabato a tutti. Cari ascoltatori, eccoci qua, penultima puntata di Si può fare prima della pausa estiva. Domani sarà l'ultima puntata, facciamo i saluti prima delle vacanze. C'è della mestizia, sono triste per io sono triste, sì. Avrai tutti i weekend sono liberi, pensaci. Questo è vero, pensaci. Però sono un nostalgico, quindi sono già tristanzuolo. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo. Noi come sempre cerchiamo di non perdere il lume della ragione, l'ottimismo e di guardare avanti. avanti anche con questi attentati che ci sono stati in tre continenti gravissimi, però noi cercheremo, e fra poco ve lo racconteremo, di vedere laddove il terrorismo vuol dividere, laddove invece si marcia uniti. No, marciare non va bene, è una cosa troppo militaresca. Si cammina mano nella mano. Si cammina mano nella mano a comunità religiose cristiane e musulmane in Sicilia, che impegnate insieme nell'aiuto dei più poveri, di chi ha bisogno, e anche degli immigrati. Questa è una bella storia, ve la racconteremo tra poco. Diamo un'occhiata ai siti internazionali, visto che Carlo capisce il tedesco. Sono agitatissimo perché oggi mi hai chiesto questa cosa è proprio una cosa veramente da perché... giornalista. Ah, forse perché sta finendo la trasmissione, quindi questo è l'esame finale. Vedere come titolano l'attenzione che c'è, per esempio, sui giornali francesi, perché molti, vabbè, la Tunisia francofona, l'attentato a Grenoble in Francia, però in questo momento Le Monde, per esempio, titola su Tsipras. Anche Frankfurt Allgemeine titola su Tsipras kündigt Volksabstimmung über gläubige Angebote an. Che quindi... tradotto in italiano vorrebbe dire? Beh, Tsipras ci sta provando, diciamo. Invece Le Monde scrive: Tsipras sottometterà il piano di aiuti alla Grecia ad un referendum. Uguale Der Spiegel, anche loro sul referendum in Grecia. Poi subito dopo Spiegel titola Tag des Terrors, giorno del terrore, e parla dei tre attentati. Qua per esempio Le Monde dice che l'ISIS rivendica l'attentato a Sousse in Tunisia, e questa è la notizia delle ultime ore. Per quanto riguarda l'attentato invece in Isère, a Grenoble, un corpo decapitato, tre persone ferite. Poi per esempio Le Figaro, lo scenario barbaro dell'attentato dell'Isère, cioè c'è più attenzione su quello che è accaduto in Francia di quello che è accaduto in Tunisia, quasi. È bello perché questi i giornali francesi, i giornali tedeschi invece c'è molto più attenzione su quello che è successo in Grecia. Cioè. Che non dell'attentato. Anche Die Zeit dice, parla del referendum di Tsipras, e poi la rivendicazione dell'attentato da parte dell'ISIS, dell'attentato nell'albergo. E alcuni altri giornali invece parlano. Come si dice ISIS in tedesco? IS. La sigla è la stessa. Invece i francesi, che francesiscono tutto, scrivono l'EI. Vedi, perché loro giustamente. E invece alcuni altri giornali, tra cui anche i giornali italiani, parlano di una notizia storica, quella negli Stati Uniti. Io ieri ero a un convegno a Palazzo Marino, ero in mezzo a tutte persone in giacche e cravatte, mi sentivo molto importante in mezzo a Palazzo Marino a parlare dalla non discriminazione all'inclusione per il mondo LGBT. Alla fine del convegno lo stesso Simone Spezia ha dato a tutta l'assemblea, a tutto il convegno, la notizia dagli Stati Uniti, che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che il matrimonio è un diritto garantito dalla Costituzione anche alle coppie omosessuali, con 5 voti favorevoli e 4 contrari. Quindi da oggi in tutti i 50 stati del paese dovranno permettere a due persone dello stesso sesso di sposarsi e riconoscere i matrimoni omosessuali, anche quelli contratti negli altri paesi. Questa è una notizia storica che cambia completamente. È il quarto titolo, per esempio, anche di Le Monde in questo momento. E ricordiamo che è una cosa fondamentale, perché in 37 stati su 50 già era ammesso questo, negli altri 13 no, ed è interessante vedere, se uno guarda la cartina, che quei 13 stati sono praticamente gli stessi 13 stati che 50 anni fa erano contrari al matrimonio interrazziale, ovvero che i bianchi potessero sposare i neri. Quindi mi sembra giusto che sia la Corte. E poi ricordiamo, a proposito di prima che dicevi, si cammina mano nella mano, oggi c'è il Pride a Milano, c'è anche il Pride a Bologna. Il Pride a Milano inizia alle 16 da Stazione Centrale, così lo volevo ricordare, che mi sembrava da Piazza Duca d'Aosta. A fine puntata avremo anche un'iniziativa nostra, Sole 24 Ore, soprattutto gastronauta Davide Paolini, un'iniziativa gustosa, ve lo anticipo subito. Ma noi ci infileremo il panettone tutto l'anno qua in sede di via Monterosa a Milano. Del Sole 24 Ore si potrà gustare il panettone come non l'avete mai visto, perché insomma Paolini ha questa idea che il panettone va mangiato sempre, non solo a Natale. Allora noi vi chiediamo, ascoltatori, tutto quello che vorreste fare tutto l'anno, qualcosa che è più circoscritto in un periodo, ma che voi preferireste fare tutto l'anno. Non so, per esempio il bagno d'inverno, no? Ce lo voglio fare talmente tanto che lo faccio anche d'inverno. Allora, l'avete fatto, raccontarci. Oppure insomma mangiare la polenta ad agosto, la polenta col sugo. Lo so, io vorrei Natale qua. tutto l'anno l'anno, ecco, regali sotto l'albero. 800 24 00 24, vai. Però dopo poco sono arrivati loro, come tanti pirati dal mare, in 6.000 sopra ad un gommone, con la furia, Dio che furia, con la furia. l'ansia di un pesce cane, con la rabbia di un uragano e la violenza della rivoluzione. Come tanti pirati bendati, con coltelli minacciosi affilati, stretti in mezzo ai loro denti spiegati e con le carie anche dentro i vestiti. Brutti sporchi, cattivi, arrabbiati, arrivati per rubarci l'oro e scappare via con il bottino e poi tornare con i carri armati. Ma che bello era il mondo quando eravamo intregati ed è stato uno sbaglio popolarlo di tutti, perché sì, stava meglio prima dei tempi, bei tempi, quando eravamo in 300. Su questa bellissima loro di Piero Sidoti, che è stato anche nostro ospite qualche tempo fa, la notizia è questa. Siamo in Sicilia, abbiamo detto, la moschea distribuisce cibo agli italiani poveri, la Caritas ai musulmani. E a noi questa notizia è sembrata molto bella, laddove, laddove il terrorismo sicuramente cerca di dividere, qua, come dicevi tu prima, Carlo, si va mano nella mano. E allora salutiamo Abdelhafid Keith, imam della moschea di Catania, presidente della comunità islamica di Sicilia. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ma buongiorno. Anche Don Piero Galvano, direttore della Caritas diocesana di Catania. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua. Allora, insomma, complimenti, perché insomma un'iniziativa che vede marciare a fianco, io ripeto questa parola anche se è troppo militaresca, ma insomma andare uniti, no, le due comunità religiose in una cosa importante come quella di dare aiuto a chi ne ha bisogno. Tra l'altro adesso c'è Ramadan, per cui dare da mangiare gratis è una cosa che diciamo si fa normalmente, e soprattutto ha degli altri orari soprattutto. Allora, attraverso, ecco, questo gesto abbiamo voluto, come dire, lanciare insieme questo messaggio. Per noi è fondamentale, ecco, attenzione, tutti, ecco, siamo figli di Abramo, ebrei, cristiani e musulmani. Non possiamo e non dobbiamo considerarci nemici, ma fratelli. Attenzione, sono convinto e siamo convinti che questa è la strada della pace, non solo, ecco, in Italia, tra ebrei, musulmani e cristiani, ma nel mondo intero. Attenzione, dobbiamo, dico insieme all'imam, riscoprire le radici della nostra fede nel padre comune che è Abramo. Dunque, i musulmani non sono i nostri nemici, i cristiani non sono i nostri nemici. Certo, lei sorride, Don Piero, perché per lei questa cosa è scontata, no? Però lei dice bisogna ridirlo. È bello ricordarlo nella giornata di oggi. Sì. Io però vorrei chiedere all'imam Abdelhafid Keith, questi attentati sono stati anche rivendicati proprio dall'ISIS apertamente, dall'esercito islamico. Intanto, che effetto le fa che si usi una parola a lei tanto cara come l'Islam per rivendicare degli attentati, una cosa terribile, atroce, insomma? Sì, questo è un attentato criminale che non ha niente da vedere con la nostra fede, che una religione di pace, di convivenza e d'amore. Sì. Purtroppo accadono queste cose che veramente anche in un momento di spiritualità, di grande spiritualità per i musulmani, che è il mese di Ramadan e il venerdì sacro, queste persone non hanno niente da a vedere con l'Islam, e fare attentati da questo genere senza rispetto alla sacralità dell'anima umana, senza rispetto anche alla sacralità del mese del digiuno. Senta, io adesso poi parleremo anche di questa iniziativa che vi vede a fianco, appunto, nell'aiuto anche alimentare alle famiglie più bisognose di Catania e della Sicilia. Però glielo voglio chiedere, perché insomma non chiaramente chiedere a una persona bene come lei cosa. Io la interrompo un minutino per aggiungere a quanto ha detto Keith, che saluto sempre fraternamente. Sì. E attenzione, non vi sono, e qui dobbiamo essere sinceri, non vi sono uomini o donne di serie A o uomini e donne di serie B, perché certi, tra virgolette, casini in Medio Oriente o a Nord Africa li abbiamo combinati noi, europei e americani. Quando è successo un'altra tragedia a Parigi, mi riferisco a Charlie Hebdo, che cosa è successo? Tutto il mondo intero si è rivoltato contro. Ma sì, quando muoiono altri, sono musulmani o altri, questo non avviene, attenzione. Allora, questo fatto dovrebbe farci riflettere profondamente, cioè quando siamo colpiti nella nostra pelle, tutto il mondo è in rivolta. Quando muoiono gli altri... No, ha ragione Don Piero a dire questa cosa, anche perché ieri in uno di questi attentati sono morti per esempio molti musulmani in una moschea sciita in Kuwait, quindi è giusto ricordarlo. Però io volevo chiedere all'imam, insomma, cosa, che idea si è fatto lei, imam, di questo ISIS, di quanto siano solo dei terroristi o quanto invece stiano anche governando delle parti di territorio? Si dice, insomma, si parla del califfato anche come di uno stato in Iraq, in Siria, se sta facendo proseliti tra una parte dell'Islam, tra una parte dei musulmani, oppure se si tratta solo di terroristi. Sì, no, va bene, sono di terroristi nel loro comportamento con la gente, uccidendo ferociamente e senza pietà, ma di sicuro hanno un progetto, e questo è la nostra paura, il progetto che stanno occupando dei spazi, perché questi popoli hanno subito del tutto con dei regimi dittature e hanno trovato forse anche in loro una via di salvezza, perché il fatto un regime come quello di Bashar o di altri in Siria, la gente ha trovato forse il meno male nell'ISIS quando ha occupato, perché si è sentita anche sicura, hanno nelle città occupate hanno cercato di fare del bene per la gente, a prescindere di quelli che appare nelle televisioni per le decapitazioni e tutto. Don Piero, lei l'ha già detto, sì, ma insomma non so se chiederglielo anche a lei, si è preoccupato da questa radicalizzazione che comunque è nelle intenzioni dei terroristi, poi dipende da noi, persone normali, allora, che guarda, non siamo terroristi, di non abboccare, però insomma. Guardate che attenzione, che l'80% del mondo musulmano, attenzione, è con l'ISIS. Come si è arrivati, perché si è arrivati a questa situazione? Ripeto, è anche nostra responsabilità. Ma noi qui da Catania vogliamo lanciare insieme a Katie questo messaggio. Attenzione, fino a quando ci considereremo nemici, il nemico va distrutto, sono ammazzate. Allora, e non fratelli, sarà impossibile che ci sia pace in tante nazioni del mondo. Ecco, la via, come dire, della figliolanza di Abramo, attenzione, secondo me è l'unica strada comune che dobbiamo intraprendere. Ecco, qui da Catania, da ecco, voi ci chi è che mi racconta come state, diciamo, gestendo, organizzando anche questi aiuti alimentari insieme? Come è nata l'idea di farlo insieme, comunità islamiche e comunità cristiane? Allora, all'inizio del Ramadan i musulmani mangiano esclusivamente dopo il tramonto del sole. Allora, venendo alla mensa lì della Caritas, all'Help Center, della stazione centrale, allora noi in genere prepariamo ogni giorno circa 400 pasti. Molti musulmani, ecco, non potendo mangiare alle 18:30, noi li preparavamo, diciamo, la cena, ecco, il pasto in vaschette di plastica, ecco, monouso, poi il panino, eccetera, e se lo portavano a casa. Ecco, allora abbiamo pensato di aiutare con generi alimentari la moschea, perché dopo cena, ecco, dopo il tramonto del sole, loro cucinano proprio per tanti musulmani che vanno lì e non hanno la possibilità, ecco, di mangiare. Allora abbiamo portato generi alimentari, ma attenzione, ma non solo generi alimentari, ad esempio anche ieri abbiamo caricato i materassi, i cuscini, coperte e altri tavoli, perché avevano bisogno. Quindi c'è questa ottima, ecco, collaborazione. Non facciamo, ecco, distinzione di persone, assolutamente, e anche i musulmani, anche Katie, che è l'imam, non fa distinzione di persone. Se vengono italiani lì alla moschea a chiedere aiuto, ecco, loro danno aiuto. Quindi c'è questa ottima, ecco, collaborazione. Ma attenzione, sì, il problema di base qual è? Non dobbiamo percepire l'altro, il diverso da noi, come un nemico. E questo è alla base di tutto, è una ricchezza culturale. Posso portare la mia testimonianza? Ecco, guardate, io vivo alla Casa del Clero. Alla Casa del Clero ho incontrato chi veniva dal Congo, dalla Tanzania, dall'Egitto, dall'Ucraina e dall'India, dello Sri Lanka, eccetera. Posso testimoniare, attenzione, e affermare che la conoscenza e il confronto con le altre culture, dunque modi di pensare e di vivere, ecco, diverso dal mio, è stato e continua ad essere per me e per tutti quelli che vivono qui alla Casa del Clero di Catania un arricchimento umano e cristiano. Aiuta sia a vivere in questo mondo, dico, nel rispetto e nell'accoglienza di ogni uomo e di ogni donna, sia a valorizzare la novità che porta con sé l'altro, perché in ogni uomo, e dico in ogni cultura, c'è qualcosa di bello, di buono, di giusto, che puoi ricevere e anche donare. Ecco, allora, alla base di tutto c'è questa condizione. Non dobbiamo avere paura dell'altro, del diverso. Giusto, molto giusto che non dobbiamo avere paura. Ed è bello che si stringano mani e si costruiscono ponti laddove invece si cerca di distruggere. Mi scusi, non so se ho sentito, ecco, non so se abbiamo sentito male, ma prima... Don Piero, prima, un attimo, Don Piero. Ma prima diceva, ma prima, forse abbiamo sentito male noi, diceva l'80% dei musulmani fanno parte dell'ISIS, no? No, non che fanno parte dell'ISIS, dico... Cioè, condividono, attenzione, io so questo dato, non me lo sono inventato io. Ma non mi sembra un dato. Che dato è? Scusi, Don Piero, non abbiamo capito bene. Che dato è? Io ho letto, sì, attenzione, che il mondo musulmano, sì, è proprio quasi come dire, una sorta di rivendicazione, ecco, nel contro, chiamiamoli così, sia gli europei e anche diciamo, gli americani, attenzione. Si riconosce in quello che fa, ecco, l'ISIS. Mi sembra un dato esagerato, ma chiediamo all'imam. Mi sembra un dato folle. Chiediamo un attimo all'imam. Scusi, Don Piero, chiediamo all'imam. Io non condivido con Don Piero questo dato, perché anche da questo dato in che cosa è basato? Da che cosa? Lo vedo un po'. Vedo un dato un po' strano, perché noi, essendo musulmano, e anche conosco io questa gente, noi viviamo con questa gente, con i musulmani. Io, ad esempio, a Catania faccio l'imam dal 97, quelli che sono passati dalla moschea, non parlo di decine di migliaia di fedeli, sì, ma sono centinaia e migliaia di fedeli. Quelli che condividono questi ideali dell'ISIS sono pochissimi, anche se contano sui diti. Io parlo di quelli che arrivano. No, ma infatti volevamo rimettere a posto questa percentuale, che ci sembrava una percentuale. No, era un po' così. Esatto, allora, quindi a posto. Va bene, noi vi ringraziamo e vi salutiamo, perché abbiamo esaurito lo spazio e il tempo a disposizione. Tra poco ci abbiamo informazioni sul traffico. Grazie per essere stati con noi, sia Don Piero Galvano della Caritas, sia della Feed Kate, imam della moschea di Catania. Stiamo alla notizia. La notizia è questa: in questa città, in questa regione, si cercano di stringere delle mani, di costruire dei ponti nell'aiuto, per esempio, perché poi le chiese a cosa servono? Servono sempre nel momento del bisogno. E quindi in questo momento del bisogno, che è particolarmente sentito in Sicilia tra immigrati e famiglie povere, abbiamo due comunità religiose che collaborano tra di loro, e questo dobbiamo, non possiamo che essere felici. No, la notizia è bellissima, nel senso che sono moltissimi italiani che ricevono il cibo dalla moschea, come ci sono i musulmani che ricevono il cibo dalla chiesa. Quindi 800 24 00 24, ci fermiamo per un... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo ben ritrovati, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti. Vi aspettiamo all'800 24 00 24. Allora, abbiamo su Twitter, c'è Mara Proie che dice che io ho detto Ramadan, non Ramadan, è vero, mi sbaglio, intanto mi sbaglio, mi confondo, anche se lo so, però. Poi c'è invece Simon Tassone che dice: i festival delle favole con Don Piero, ditegli di tornare alla realtà. Don Piero in effetti ha un po' svasato, a un certo punto ha un po' svisato. E poi anche l'imam dice, Simon, che condanna mai fino in fondo. Ti è sembrato che l'imam non condannasse fino in fondo, che fosse un po' timido nel condannare l'attentato? Onestamente no, però mi sembrava che proprio non partecipasse al suo orizzonte, nel senso però che... è vero che in questo momento sicuramente tutti quelli che fanno, che stanno in mezzo, ma tutti quelli sì, perché l'ISIS si chiama Esercito Islamico, quindi chi professa quella religione islamica è chiamato per forza, è brutto da un lato, è chiamato per forza per dire, ma no, che sì, non è assolutamente non la questione. Una cosa e l'altra non c'entrano, è come se ci fosse un serial killer che dice che è molto cattolico e uno che cosa dice, allora voi cattolici che cosa pensate, siete a favore di questo serial killer? Ovvio che no. Quindi, però qua siamo di fronte addirittura a chiederglielo, siamo insomma di fronte a un califfato, siamo di fronte a stati che sono in mano in parte a questo esercito islamico, siamo di fronte a un fenomeno che va avanti da troppo infatti tempo. È arrivato anche un bel messaggino non so, di Anna da Lucca, che dice: bravo Gabardini, rompici le palle con le novità americane sulle unioni gay, che vuoi che siano gli attentati. Stiamo parlando anche di attentati, ma d'altronde non è che possiamo parlare 2 ore e mezza di attentati. Attentati ci sono stati. Io ti avevo detto che non era la giornata adatta per celebrare questa cosa qua, grazie, ma d'altra parte la giornata dobbiamo data, avanti, la giornata data l'hanno scelto gli americani di fare, di cambiare la storia con questa legge. E poi il Pride è oggi, che cosa ci possiamo fare? 800 24 00 24, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti, è tutta una questione di catene e di corone, di grasso che lubrifica la vita alle persone. Come nella vita c'è una ruota che gira, una ruota che spinge con quest'aria che tira, se una ruota si fora la caduta è sicura, una toppa ripara, una ferita sicura, non avere paura che se no ti deconcentri, devi far coincidere i pesi e baricentri, l'impegno di una coppia per un singolo momento, due le forze in gioco, un solo movimento, insegui la tua storia ovunque vada. E l'ultima puntata non poteva mancare una storia di quelli che pedalano. Certo, non poteva mancare soprattutto Frankie Energy. Ci congediamo anche con anche così noi dai nostri ascoltatori prima della pausa estiva, ci vediamo domani 8:30-11, ma insomma la storia di uno che pedala oggi è quella di Enrico Milani, autore della pedalata benefica per Nina. Buongiorno Enrico. Buongiorno, state bene? Noi benissimo, siamo benissimo. Buongiorno. Sì. Allora, la storia di Enrico, vado per sommissimi capi, poi la facciamo raccontare a te Enrico. Un appassionato di sport, di calcio e di, in particolare di una squadra inglese, parliamo del Sunderland. Esattamente, una piccola squadra. Una piccola squadra, con degli amici, segue le partite, va addirittura allo stadio, cominciano a fare delle cose insieme, partite di beneficenza, a scopi benefici per bambini, per bambini autistici per esempio. Poi a un certo punto vengono a scoprire la storia di Nina, che adesso ci racconterai tu Enrico, e a quel punto Enrico decide di fare una cosa strana, decide di andare alla prima partita di campionato del Sunderland, la sua squadra del cuore inglese, in bicicletta, partendo d'estate, arrivando a un certo punto a un giorno d'agosto, quando inizierà il campionato inglese, per fare un'iniziativa benefica. La bici verrà messa nel museo, raccoglierai dei fondi, tutto questo per Nina. Chi è Nina, Enrico? Nina è una bambina di Roma che ha una malattia ancora senza nome. È una malattia genetica molto rara che colpisce una persona su 7 miliardi. Solo lei. Quindi praticamente. Esattamente, solo lei. E l'ho conosciuta in maniera particolare perché noi avevamo organizzato un torneo di calcio benefico, sì, e per la squadra vincente e il Montepremi avevano deciso di darlo in beneficenza, e quindi abbiamo detto a chi lo diamo, abbiamo chiesto in giro e su internet ho visto la sua storia, mi ha appassionato, l'ho contattata e ho scoperto comunque una cosa stranissima, che lei pur vivendo a Roma è la nipote di un ex professore. Quindi di scuola, un insegnante della scuola. Insegnante della scuola, quindi una cosa. Una casualità nella casualità. Esattamente. E abbiamo fatto questo torneo, naturalmente noi tifosi del Sunderland siamo come Sunderland, non l'abbiamo vinto questo torneo. Però parlando con le altre squadre, sempre di tifosi italiani delle squadre inglesi, siamo riusciti a portare la passione anche agli altri, quindi ormai tutti o molte squadre seguono Nina. Cioè tutti tifano squadre diverse, ma tutte tifano Nina. Esatto, esattamente. Infatti abbiamo fatto anche il mese scorso questo solito torneo che viene fatto a maggio a Milano, hanno vinto i tifosi del Chelsea e il montepremi per i vincitori è stato donato a Nina, quindi a noi ha fatto moltissimo piacere. Adesso tra tu però partirai in bici, quando partirai? Esatto, io partirò il 25 luglio per essere a Sunderland il 15 agosto, che sarà la prima partita di campionato. Cavolo, iniziano proprio il giorno di Ferragosto in Inghilterra, mica scherza. Inizia la settimana prima, solo che l'otto giocano fuori casa e quindi io arriverò per fortuna per ti lasciano una settimana in più per fare 2000 km in bicicletta, perché ricordiamolo, non è esattamente un viaggetto scherzo. Corto. Senti, Enrico, ma come si fa a contribuire a questa causa, diciamo, durante questo tuo viaggio in bici? Adesso quali sono i canali? In questi giorni sono d'accordo con la famiglia di Nina, stiamo creando un sito per la raccolta delle donazioni. Appena sarà pronto verrà messo su internet, sia nel blog di Nina, sì, che è chiamato In Viaggio con Nina. E il blog esiste già, In Viaggio con Nina, si può già andare a leggere la storia. Sì. Potete già. Allora, ascoltatori, andate a leggervi intanto la storia di Nino e di Nina e di Enrico, che si intreccia in questa maniera incredibile, rocambolesca, molto affascinante. E tanto complimenti anche per quello che fai, Enrico, in questa tua attività di beneficenza, di cui c'è sempre bisogno, naturalmente. Andate sul blog, leggete, poi piano piano ci saranno i canali per donare. Io voglio dire solo una cosa, prima di salutare Enrico, che intanto potete fare una cosa, potete fare una donazione a TOG, Together to Go Onlus, una onlus che si occupa di cure complesse per bambini con patologie neurologiche complesse. 45503, una onlus completamente autofinanziata che si occupa proprio di aiutare bambini che hanno gravi patologie e gli fanno delle cure, delle fisioterapie. Io l'ho visto, è un posto bellissimo a Milano, è straordinario. 45503. Enrico, volevo dire un'ultima cosa, sì, che è molto bello se andate sul blog di Nina, che dice in maniera molto precisa: non c'è un unico modo per aiutarmi, quindi non è che solamente potete fare un bonifico, perché e c'è l'esempio, ci sono persone che fanno sedute di Reiki a distanza per Nina, c'è un gruppo di amici che porta a spasso il cane per Nina, c'è chi tiene Nina nel momento, di modo che sua mamma possa fare una doccia, possa fare la spesa. Ci sono tanti altri modi per aiutare Nina, non solamente quello del bonifico. Poi il bonifico non fa comunque male. Enrico, mi sa che ci risentiremo quest'estate, ti preannuncio che saremo in onda la sera 18 alle 20:30 tutto agosto, e quindi tu starai pedalando verso l'Inghilterra e ti disturbiamo, ti veniamo a trovare, va bene? E poi se volete seguirmi anche giorno per giorno c'è la pagina Facebook, sì, si chiama Road to Stadium of Light, che è lo stadio del Sunderland, dove io ogni giorno metterò le fotografie e filmati di quello. Grazie. Che grazie mille, buon viaggio. Buon viaggio, cari ascoltatori, noi invece ci ritroviamo tra pochissimo. 800 24 00 24. Il segnale orario vi è offerto da Proteggi la tua casa. Index isola, impermeabilizza e risana in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I got me a shovel and I'm digging a ditch and I'm gonna fight for this 4 square feet of land like a mean old son of a bitch. I got me a future, I'm not stuck on the past, I've got no new tricks. Yeah, I'm a pop prince, but me, I'm a machine and I was built to last. I'm trying to get back, Marcus, started burning up my chest. questa è Si può fare. Questa che abbiamo appena ascoltato è Get Better di Frank Turner, canzone segnalataci da Stefano su Twitter, ovvero come grande canzone e grande ottimismo. Vi ricordiamo che noi stiamo sempre cercando dei Si può fare in musica, sia che voi siate dei musicisti o dei compositori, abbiate scritto delle canzoni ad hoc, sia che voi siate invece degli ascoltatori che riconosciate in una canzone ciò che secondo voi racchiude molto bene il concetto di Si può fare. Lo potete fare segnalandocelo sui nostri account di Facebook, che è Si può fare trattino Radio 24, oppure sul nostro account di Twitter, che è chiocciola Si può fare 24, oppure sul nostro account personale. Il mio è chiocciola Carlo Gabardini, il mio chiocciola Ale Maurizi. Cari ascoltatori, vi aspettiamo sempre naturalmente 800 24 00 24. Siamo partiti questa mattina dall'intervista con Don Piero della Caritas di Catania e con l'imam Kate, comunità islamica e comunità cristiana insieme unite nell'aiuto alle famiglie più bisognose. Vi ricordo l'appuntamento in chiusura di puntata con Davide Paolini, il gastronauta, e il panettone tutto l'anno, l'iniziativa che si terrà oggi. Venite a gustare il panettone offerto dai produttori qua in via Monterosa a Milano alla sede del Sole 24 Ore, e vi chiediamo cosa vorreste fare tutto l'anno, cose che si fanno normalmente in altre stagioni, magari trasportate. Non so, l'ho detta male. No, così. Una cosa che magari si fa solamente in un dato periodo dell'anno, sì, addirittura solamente in un giorno, che vorreste fare per tutto l'anno, oppure anche cose che avete fatto, per così dire, tra virgolette, fuori stagione. Oppure se siete proprio dei fan del panettone, è la vostra giornata per chiamare e parlare. Si può fare. Voglio... potremmo aprire il grande dibattito Pandoro panettone. Allora, panettone potrebbe essere, potrebbe essere. Sentiremo dopo cosa ne pensa Paolini. E intanto, sulla la pedalata per Nina, in viaggio con Nina, abbiamo sentito i ricominci Milani che ci chiede un ascoltatore da dove partirà Enrico per andare a Sunderland in bicicletta dal lago di Iseo. Quindi abbiamo tolto anche questa curiosità a un ascoltatore che ce lo chiedeva, e tra l'altro preciso che sul blog In viaggio con Nina ci sono già i contatti Liban per aiutare questa bambina che ha bisogno di tante cure. Giusto. E io invece ci tengo a ricordare, visto che prima parlando con Don Piero Galvano parlava dell'80% di persone musulmane a favore dell'ISIS, e io ho detto ma mi sembra una percentuale troppo alta, mi correggo per una motivazione molto precisa, che la notizia c'è, effettivamente c'è stato un sondaggio che però viene venduto come un sondaggio non scientifico ed è all'interno di degli ascoltatori di Al Jazeera, hanno fatto questa domanda, è uscito l'81%, ovviamente è un sondaggio che da loro stessi viene detto non ha nessunissima base scientifica, per un semplicissimo motivo, che sono solamente quelli che decidono di partecipare, quindi è un sondaggio dove non si sa chi ha partecipato, siccome tra l'altro l'ISIS, come ben sappiamo, è su internet dalla mattina alla sera e comunica direi meglio di Renzi come organizzazione, quindi è presumibile esatto che siano loro, però insomma la notizia c'è e ci tenevo a precisarlo, perché sennò sì, sembrava che dicessi di no all'SMS, ci hanno suggerito questa Don cosa Piero Galvano, che c'era sfuggita. Franco da Roma, buongiorno. Buongiorno. Cosa voleva intervenire Franco? Sì, in base a quella vostra, cosa vorrei fare tutto l'anno. Allora, visto che i politici si lamentano che 5.000 euro al mese non ce la fanno, vorrei dare lo stipendio di un operaio, 1.100 euro a loro, e vedere in un mese come se la cavano. Dicerei neanche tutto l'anno, che... basterebbe un mese. No, basta un mese, guarda, un mese per rendersi conto, per fargli capire come siamo messi in Italia. Hai capito? Questa è la cosa che vorrei fare. Questa è... penso sì. Tutti gli italiani vorrebbero fare questo, per fargli capire a questa gente che facciamo tutto l'anno e non solo un mese, così almeno risparmiamo un po' di soldi pubblici. Facciamo tutto l'anno, sì, che si lamentano. Poi mi allargo un attimo. No, ma ha ragione, perché può sembrare una cosa un po' demagogica. Però, per esempio, Salvini ha detto: il prossimo sindaco di Milano ora è uno che viaggia in metropolitana. Anche questa può sembrare una cosa demagogica, però invece è vero, un po' di bagno, diciamo, di concretezza. No, il bagno di concretezza è giustizia. Ricordiamoci anche che i politici, se non fossero pagati, diciamo. Cioè, se fossero pagati molto poco, il rischio è che solamente i miliardari possano fare i politici, oppure che ci vadano a fare i politici solamente delle persone che poi dopo, volte, che poi sì, dopo però, sì, si devono arricchire in un altro modo. Però come esperimento molto d'accordo. Ecco, Franco, ci salutiamo, voleva aggiungere qualcosa? No, volevo dire questo, sì. Mi allargo un attimino sulle pensioni. Cerchiamo di valutare le pensioni sul lavoro che fa una persona, perché un operaio, una persona che sta al sole, al freddo, si usura, è come una macchina, si usura. Vabbè, non è come quello che sta in ufficio, capisci, ti voglio dire, cioè, sì. Diamo, adesso però non ci faccia entrare Franco nel tema delle pensioni, non siamo preparati su questo tema oggi. No, a parte gli scherzi, non è il tema della puntata, ma è sempre è un evergreen, è un po' come i politici. Luigi da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi richiamato. No, avete puntualizzato anche voi, io ho chiamato per quella notizia apparsa sui giornali del sondaggio di Al Jazeera, che come avete detto voi non è scientifico, sì. Tuttavia, perfetto, è comunque una minima indicazione, come quelle che succedono nei nostri giornali, che vengono fatte sui nostri giornali ogni giorno, sono, catturano magari anche il momento, magari sull'onda emotiva. Semmai sulla parte, ecco, dell'esempio che avete portato su Sicilia, che è molto bello, sì, credo che comunque ci sia una parte culturale molto forte che forse viene ignorata, o delle parti, quando si parla di ISIS o di estremismo islamico, che vengono ignorate. E cioè quale sarebbe? Ma che ci sia comunque un problema culturale sia nell'Islam sia degli islamici in Europa, e comunque considerando la quantità di combattenti che partono dall'Europa, vuol dire che forse anche il modello culturale europeo non riesce, a dei problemi, e forse anche l'integrazione o la mancanza di integrazione da parte di ampie fasce, no? Spesso fasce più giovani, è un problema sia da noi che da loro, forse è questo che non si cerca, sì, di attaccare. Ho capito cosa vuole dire lei, Luigi. Anche a me per esempio ha colpito, intanto grazie per aver chiamato, poi andiamo sul traffico, ha colpito per esempio una notizia che ho letto oggi in rassegna stampa, che ben 3.000 tunisini sono stati a combattere in Iraq e in Siria, i foreign fighters. Cioè, parliamo della Tunisia, un paese moderato dove comunque non c'è guerra, non ci sono crisi aperte, quindi parliamo di una classe media forse, per qualche motivo spinta anche a scelte di questo tipo, quindi diciamo è uno scenario su cui sicuramente vale la pena riflettere. 800 24 00 24, traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare cronache da un paese migliore. Place, questo deve essere il posto. Salutiamo e diamo il benvenuto a Umberto Postiglione, direttore dell'Agenzia per i beni confiscati alle mafie. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno. Allora, parliamo per esempio di una notizia, ma lei recentemente ha avuto modo anche di fare un bilancio, insomma, di quanti beni sono stati confiscati, ma soprattutto riconsegnati a associazioni, attività, tornati insomma a nuova vita, beni confiscati alle mafie. L'ultima è la villa di Fondo Micciulla a Palermo, dove i boss di Cosa Nostra si incontravano per decidere anche omicidi importanti. importanti ed è diventata ufficialmente, lo era già in parte, una base degli scout. Postiglione, insomma, qualche passi in avanti su un tema che però resta sempre complesso, quello di ridare vita alle attività sottratte alla mafia. Beh, devo dire che l'Italia è il paese che sta esplorando questa attività, perché in nessun posto al mondo c'è una normativa che consente di togliere i beni alle organizzazioni criminali come quella italiana. Ci vengono a studiare e una volta tanto siamo i primi. Ed è sempre bello ricordarlo questo. No, è vero. Purtroppo però partiamo da un primato negativo, siamo anche quelli che hanno la mafia e quindi sì, va bene, ma la mafia c'è, però reagiamo, sappiamo reagire, questo è l'importante. Il primato è nostro perché li chiamano mafie dappertutto, però insomma. Questo è anche un primato linguistico. Sì. Sicuramente è stata una strada molto complessa, lunga, articolata. C'è da individuare meglio le fattispecie, c'è da soprattutto accelerare i processi per gestire le fasi piuttosto lunghe dei procedimenti che riguardano questi beni, tra l'attività della magistratura e l'attività che poi deve fare l'agenzia. Volevo dare una cifra, sì. Poi la faccio proseguire, scusi, lo dico io, perché lei recentemente ha in qualche modo segnato un passaggio, è un anno dal suo insediamento circa, no? Esatto. E recentemente lei lo ha detto. Abbiamo consegnato in questo anno di lavoro 3.100 beni, un traguardo mai raggiunto prima. Abbiamo moltiplicato per 6 le consegne. Abbiamo raggiunto questo, vado benissimo per la vostra trasmissione, si può fare. Certo. Ed è una dimostrazione data con più o meno lo stesso personale che c'era prima, estremamente ridotto all'agenzia, e perché ci siamo organizzati meglio, perché i miei collaboratori sono riusciti a motivare tutta la macchina e io insieme a loro abbiamo ottenuto un risultato che ha dello straordinario, perché sfido chiunque a cercare nella macchina pubblica una struttura che ti moltiplica non raddoppia per 2, no, per 6 il risultato. Ma lei quanti siete nell'agenzia, tanto per dare un'idea? A lavorare sui beni confiscati complessivamente nelle 5 sedi di Reggio Calabria, Palermo, Napoli, Roma e Milano siamo 70. E con tutti i dipendenti pubblici che ci sono in Italia, giustamente distribuiti in altri uffici, insomma, non potrebbero mandarvi qualcuno delle province che chiudono, così vi danno una mano? Questa potrebbe essere una delle tante ipotesi. Io ho chiesto di avere un organico di almeno 300 persone e che non siano persone in comando da altre amministrazioni. Con la chiusura delle province è perfetto, perché sarebbero dipendenti confiscati allo Stato. Sì, ci sono tecnici nelle province, ci sono anche legali, quindi tutto personale che andrebbe benissimo per la nostra attività. È una cosa che ho proposto, ma insomma è il momento di decidere. Speriamo che le norme, che i disegni di legge che sono stati presentati e le norme che verranno fuori dal lavoro del Parlamento ci possano consentire anche questo. Sarebbe molto bello e vi ringrazio di averlo ricordato in trasmissione. Voglio dare anche un'altra notizia che riguarda invece Milano, non so se c'entra anche l'Agenzia per i beni confiscati alle mafie, questo è un altro percorso che riguarda la rinascita del Palaiseo, che è stato restituito alla città dopo un incendio doloso dovuto alla criminalità organizzata nel 2011. Ci sono voluti 4 anni per ridarlo appunto alla cittadinanza, però insomma l'agenzia qua non c'entra, però la proprietà del Palaiseo non era di un mafioso, l'attentato è stato fatto da loro, ma insomma non era la proprietà, credo che fosse pubblica, ecco, ma comune, specifichiamo anche questo aspetto, perché voi intervenite quando quando ci sono proprietà che vengono sequestrate, proprietà private ai mafiosi condannati, e a queste cercate di ridare nuova vita. Qual è normalmente la, diciamo, o principalmente le destinazioni? Associazioni, altre attività, allora, economiche, guardi, volontariato? È tutto previsto dalla legge, e forse anche lì bisognerebbe apportare, sì, qualche cambiamento per velocizzare. In ogni modo, noi appena il bene ci arriva in confisca definitiva, cioè quando la magistratura ha finito e ci consegna il bene che è entrato a far parte delle proprietà dello Stato, sì, noi scriviamo al demanio dello Stato. Sì, però più che raccontarci, scusi, è la procedura, sì, perché immagino che sia, sì, anche tecnicamente interessante, perché è ovvio che per voi è il vostro lavoro, la vostra attività. Però la cosa che, il punto a cui volevo arrivare è questo: si dice spesso che uno dei punti forti delle mafie è che danno da lavorare, creano attività economiche e quindi reclutano persone su questo. Allora, questi beni sottratti alla mafia, in quanti casi tornano ad essere attività economiche rendono maniera legale? Le voglio fare un esempio, così siamo più concreti. Qualche anno fa è stato sequestrato un patrimonio di circa del valore di circa 600 milioni di euro a un prestanome di Matteo Messina Denaro, il capo ricercatissimo di Cosa Nostra. Erano i supermercati e le proprietà che facevano capo al signor Grigoli. I supermercati erano 33, sì, e fra questi c'era anche un centro commerciale che si chiama Bellicittà, che è giù in Sicilia. Noi dopo che sono state completate le procedure giudiziarie, abbiamo acquisito al patrimonio dello Stato tutti i beni immobili, poi abbiamo cominciato la ricerca, sì, sondando tutti i grandi gruppi europei della distribuzione e quelli italiani, finché non abbiamo trovato una società con ovviamente il certificato antimafia liberatorio, certo, che ha cominciato a riaprire fittandoli tutti questi, perché bisogna trovare degli imprenditori disponibili, è ovvio, certo, perché non è che fare, così si fa, non è compito nostro fare gli imprenditori, però siamo riusciti a fare pure questo e glielo spiego subito dopo. Oggi siamo alle soglie della riapertura di altri 3 dei 33 supermercati siamo fiduciosi perché torneranno a lavorare tutti i 240 dipendenti. No, scusi, 3 su 33 sono No, ne abbiamo già aperti una quindicina. Okay, quindi diciamo in questi giorni su ne riaprono altri 3. C'è un programma che vede questa società impegnata a riaprire tutti i supermercati. Però al momento siete riusciti a riaprire la metà circa, se ho capito bene? No, più della metà. Più della metà, un po' più della metà. Insomma. No, lo dico perché gli ascoltatori poi ovviamente si fanno un'idea, commentano, e c'è sempre molta sfiducia nei confronti dell'azione dello Stato, figuriamoci, di agenzie pubbliche come la vostra, però il 50% può sembrare poco, ma è un lavoro, siete in 70, non siete tantissimi. Ma mi perdoni, sì, può sembrare poco, mi scusi Postiglione, perché uno vorrebbe che riaprissero tutti, non solo il 50%. Tutti riapriranno, forse non mi sono spiegato bene, ovviamente loro devono, sì, però adesso hanno riaperto il 50%, sì, c'è il contratto per cui questi signori entro qualche mese riapriranno tutti i supermercati. No, ma non se la prenda, Postiglione, è semplicemente che così stiamo cercando di capire e di commentare queste notizie insieme a lei. Per i miracoli ci stiamo attrezzando. L'altra cosa, sì, di cui le posso parlare è l'Hotel San Paolo a Palermo, che è uno degli alberghi più grandi della città e della Sicilia, 280 camere, era lì insomma da anni in attesa che si trovasse una soluzione, ma era in perdita. Abbiamo cambiato l'amministratore, abbiamo trovato un direttore che collabora bene con l'amministratore. Oggi l'albergo è in overbooking, nel senso che è sempre pieno e sta producendo tanti utili. Queste sono le belle notizie che vogliamo sentire, assolutamente, attraverso i quali abbiamo avviato un programma per ristrutturare l'albergo e renderlo anche moderno ed efficiente, perché è un albergo degli anni 80. Oltre a questo, il San Paolo ha assunto 10 persone della Moderna Edilizia, che era una società di costruzioni, settore che certamente in questi tempi non va bene perché non si costruisce, perché non si vende, e abbiamo consentito a queste persone invece di lavorare alla manutenzione dell'albergo. Sì. Quindi ci sono state queste 10 assunzioni. In più, con il personale del San Paolo, stiamo gestendo un centro turistico, che è un albergo molto grande con spazi e cose, che è a elice marina e che si chiama Torre Xiare. Però complessivamente una percentuale non ce l'ha, una percentuale di riutilizzo delle attività economiche, di, diciamo, Ma, guardi, il vostro intervento. Guardi, quello che si può fare lo facciamo. Sì. Laddove l'azienda, e questa è una delle cose che io sto chiedendo con forza, laddove l'azienda è stata chiamata così dalla mafia, no? Perché l'ha travestita da azienda, l'ha truccata da azienda, ma è sostanzialmente una opportunità per delinquere. Faccio sì, lei dice in tanti casi non si tratta di vere e proprie attività economiche, ma di attività puramente illecite. No, ci dobbiamo fermare qua, Postiglione, ci fermiamo qua perché abbiamo esaurito il tempo a disposizione. Grazie comunque per essere stato con noi. Grazie mille. Buon sabato, buon lavoro e in bocca al lupo. La notizia è, la notizia di partenza è una buona notizia. Postiglione, insomma, la percentuale è interessante, non no, però, perché lui dice, però è bello, lui dice perché noi facciamo uno sforzo, dovete capire che non è facile, siamo in pochi, siamo in 70, cioè, però noi vorremmo, come dire, che l'obiettivo fosse raggiunto tutto, no, al 100%, che tutti sì, i beni fossero, stanno lavorando, mi sembra che lavorino bene perché lavorano con le sinergie, nel momento che riescono a spostare lavoratori di una cosa che non funziona su un'altra loro che invece sta diventando produttiva, mi sembra che stiano facendo un ottimo lavoro. Benissimo, ci fermiamo, 800 24 00 24, poi torniamo tra un attimo. Si può fare cronache da un paese migliore. Stasera mi butto, stasera mi butto, mi butto con te. E faccio di tutto per stare con te. Sei per caso tu non credi. Ed è il momento anche di salutare, di salutarlo per le vacanze e di risentirlo, il nostro Rossano Ercolini. Ciao Rossano. Buongiorno, ciao, ciao, come va? From Capannori, il nostro grande, la guida, la nostra guida, rifiuti zero, presidente di Zero Waste. Sì. Insomma, abbiamo fatto un percorso con te ormai, Rossano. Che percorso abbiamo fatto? È un anno almeno, un anno almeno, forse anche di più, che stiamo collaborando sì, alla grande. Con questa bella rubrica nostra che si chiama Dove lo Dove butto? Lo butto? Così Dove... spieghiamo anche la canzone. Eh sì, Rossano va in giro presentando incontri, iniziative, cerca di far di tutto perché insomma si capiscano le strategie giuste sui rifiuti e noi siamo partiti da questa cosa qua, ci siamo detti beh adesso si va al mare, si torna al mare, si riaprono le borse del mare, l'anno scorso si trova la crema solare scaduta e si butta via, invece non si butta via, o sì? No. Beh, intanto diciamo bisogna assumere il principio è meglio non sprecare che riutilizzare e riciclare, e questo è vero perché le creme protettive o le creme abbronzanti hanno una durata che si può estendere all'anno, ai 12 mesi, per cui c'è scritto la data di scadenza, se la crema ancora non è scaduta è riutilizzabile, naturalmente ci sono poi delle condizioni, sì, se è stata rimasta aperta sulla spiaggia. Poi sai, allora, le mamme con i bambini hanno sempre paura, piuttosto che... Ma se è scaduta la crema o è un preferibilmente? No, se è scaduta, a quel punto ci sono soluzioni fai da te che comunque possono essere adattate, per esempio sempre per la cura del corpo, per la pulizia della pelle, non per idratare, perché queste pelle contengono siliconati, contengono derivati dal petrolio, quindi sono un problema anche per il mare, perché quando facciamo il bagno poi rilasciano sostanze diciamo non cioè non, è bello non, che vanno bene per la pelle ma non per il mare, cioè non vanno bene per il mare ma vanno bene per la nostra pelle. Alcune quelle protettive che sono a base di minerali che proteggono, schermano dai raggi del sole, sono ottime anche per la pelle. Quelle che invece trattengono e ci danno la sostanza respirata abbronzatura possono creare dei problemi anche per la pelle. Tuttavia, ecco, se uno vuole non sprecare, prende questo residuo, lo mischia con 2-3 cucchiai di sale, a quel punto ottiene un mix liquido che è utilissimo per la pulizia del corpo, per lo scrub. Cioè lo scrub, ma ci sta dando un'idea stupenda, bellissima, anche perché costano tantissimo queste creme, quindi era per questo che io ce l'ho tutte le volte che è scaduta, e io parlo di crema protettiva perché sono bianco come un cencio e quindi va bene, però lo scrub non l'ho mai fatto nella vita, forse dicevi, è un po' troppo lo scrub. Sanno, poi dicevi che si possono usare anche per pulire le pelli, cioè le borse, le scarpe. Sì, per esempio le scarpe possono essere utili per diciamo ogni volta si degrada il loro uso, però piuttosto di tirar via e magari inquinare, perché abbiamo detto che in mare ahimè è una gioia, una soddisfazione, sì. Ma usando però gli abbronzanti, mi stai dicendo che in qualche modo la crema solare e l'olio per le scarpe cioè non sono così diversi tra loro. Questo è paradossale. No, perché, il contenuto è simile. La paraffina. La paraffina, ahimè, dovremmo riflettere su che cosa usiamo per la nostra bellezza. Beh, adesso i produttori di creme solari diranno: ma cosa state dicendo? Io non sparo ovviamente nel mucchio, non tutti usano la petrolina o derivati dal petrolio, ci sono sostanze completamente infatti, diciamo, biologiche. Le creme in commercio vanno benissimo, fatene uso. Ma se uno deve proprio buttarla via, dove si butta? Dove la butta la crema solare? Una volta che uno ha recuperato il contenitore svuotando, la maggior parte del problema è costituito dal contenuto eventualmente scaduto. Quello effettivamente va messo nell'indifferenziato, e anche in quel senso, se contiene derivati dal petrolio, comunque ha un impatto. Quindi nell'indifferenziato. E il contenitore invece va nella plastica? No, il contenitore è imballaggio, quindi va nel multimateriale dove a seconda dei sistemi di raccolta c'è la plastica, ci sono le lattine. Ma bisogna lavarla, bisogna lavarlo sto vasetto? È meglio perché altrimenti in quel caso, mentre io non sono proprio ossessionato dalla pulizia del barattolo di marmellata per esempio, nemmeno io. In questo caso, siccome si tratta di una sostanza potenzialmente inquinante, è meglio se uno gli dà una sciacquata può essere meglio. Una sciacquata rapida e senza spaventare nessuno, che poi uno alla fine dice allora lo abbandono in autostrada, prendo apposta, vado in autogrill e lo abbandono lì. Senti Rossano, adesso insomma si apre la stagione del mare, ovviamente insomma delle nostre spiagge sono già uscite un po' di bandiere blu, un po' di bandiere verdi, eccetera eccetera. Tu cosa farai? Declinerai i tuoi incontri su questioni più estive o continuerai a parlare? Dunque io penso di lasciarmi completamente libero agosto, ovviamente agosto è un mese vuoto da dedicare a se stessi, quindi io decido sempre all'ultimo momento, per me è importantissimo ritrovarmi, ricaricarmi, perché ci sarà un autunno pieno di appuntamenti. E ti aspettiamo, naturalmente. ci sarà la grande conferenza mondiale di Parigi, di cambiamenti climatici a Parigi a dicembre, io sarò lì, quindi diciamo verso Parigi ci saranno appuntamenti, sto organizzando delle conferenze con Capitan Moore, quel capitano della Marina americana che sta studiando i continenti di plastica, lo farò venire in Italia, quindi sono molto attento. Cioè quelle isole galleggianti grandissime che accumulano tutta la plastica e c'è nell'oceano, una cosa da incubo. Rossano, se sarai quando è la conferenza di Parigi? A settembre, ottobre? All'inizio di dicembre. Ci risentiremo sicuramente prima, poi perché no, potresti anche fare un po' da inviato, per si può fare. Va bene, ci piacerebbe molto. Contentissimo e vi ringrazio, colgo l'occasione per ringraziarvi e augurarvi buone vacanze a voi ovviamente, a tutti gli ascoltatori, rilassarsi, ricaricarsi, ci avete dato davvero uno spazio 24 volte importante. Quindi grazie. Diciamo che è l'ultimo dove lo butto e dove dobbiamo buttarci noi ad agosto, dobbiamo buttarci al mare e riposarci, giusto? E voi vi dovete ricaricare, quindi non sprecarvi, rilanciare l'energia fresca insomma delle vacanze. In bocca al lupo. Mille. In ciao, bocca al lupo. Ercolini. Speravo di farlo io l'inviato a Parigi, ma invece ho capito che lo farà Ercolini. Allora, che facciamo? C'è il traffico 800 24 00 24. c'è il traffico, no, tra un attimo. Beh, insomma, Rossano Ercolini, io lo ricordo, lui non lo dice mai, ma c'è un libro, Non bruciamo il futuro, il suo libro, per chi volesse approfondire queste tematiche. Rossano Ercolini, che ha cominciato da maestro a Capannori in una scuola elementare, parlando con i suoi alunni, cercando di fargli vedere come dentro il sacchetto dei rifiuti c'era una vera e propria miniera di risorse da non sprecare. Ha cominciato anni fa, negli anni 70, sembravano dei pazzi anarchici, rivoluzionari, anti-inceneritori, anti-tutto, e invece poi l'anno scorso ha ricevuto dalle mani di Barack Obama il premio Nobel per l'ambiente, l'Environment Prize, e che, insomma, noi siamo orgogliosi di averlo con noi. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Davide Paolini? Buongiorno. Gastronauta, il gastronauta, finalmente, è la prima volta che ci parliamo. È vero. Così, che sei ospite di Si può fare. Non sarà la prima volta che sei ospite di Radio 24 fuori dal gastronauta, o sì? No. No, forse sono stato ospite una volta di Nicoletta Carbone quando si parlava di diete, probabilmente. A noi piace fare questi intrecci, questi scambi, questi incontri. È giusto. E senti, poi basta sentirti che ho già le papille gustative, mi viene fame solamente a sentirti. Speravo che fossi qui. È vero, basta il timbro di voce di Davide Paolini che già pensi l'olio, il vino. È un riflesso pavloviano proprio. Senti Paolini e arriva la acquolina in bocca. Fra poco sono lì, fra poco sono lì sotto, quindi... A fare cosa? Raccontacelo tu, vai. Allora, oggi e domani ci sarà due grandi giornate di un raduno di 50 pasticceri che arrivano da tutta Italia, i quali hanno cominciato da un paio di anni a fare il panettone d'estate. Quindi, secondo alcuni, colpevoli di aver infranto la tradizione, ma in realtà il panettone è il dolce nazionale che si può mangiare col gelato, come si può mangiare a casa d'inverno quando fuori cade la neve, magari nel pranzo di Natale, perché è un dolce molto duttile che si presta a tantissimi abbinamenti e poi secondo me è buono veramente tutto l'anno. Beh, basti pensare che negli anni passati, quando in Italia non si produceva panettone tutto l'anno, i nostri pasticceri vicini svizzeri del Canton Ticino cosa facevano? Facevano il panettone tutto l'anno e lo vendevano agli stranieri che non lo trovavano in Italia. Allora mi sono detto, perché no? Perché non farlo anche in Italia, lanciare queste idee in Italia? E così, anno dopo anno, diciamo che... Ma quindi possiamo dire che è un po' colpa tua questo panettone? Cioè, i 50 produttori avranno qualcuno deciso anche spontaneamente, ma sei stato tu a lanciare questa campagna? Sì, sono stato io 7 anni fa con un articolo in prima pagina sul Sole 24 Ore, dove ho spiegato che la destagionalizzazione del panettone poteva portare dei soldini e poteva anche servire a... così servire proprio i turisti stranieri che volevano portare via un souvenir, tant'è vero che ormai tutti mi confermano che molti stranieri vogliono il panettoncino da mezzo chilo da poter mettere in valigia, anche perché, e riportarselo come souvenir. Certo, tra le cose che si possono portare via da mangiare, tra i dolci soprattutto, il panettone è adattissimo perché è sigillato. È quindi sigillato e resiste un sacco. Non è che ti puoi portare via un tiramisù, insomma. No, ma poi rappresenta l'Italia. Pensa che in Brasile il più grande produttore al mondo di panettoni oggi è un brasiliano, un'azienda brasiliana, che mi dicono voglia arrivare anche in Italia, quindi perché farsi portare via, diciamo... Scusa, il più grande produttore al mondo di panettone è un'azienda brasiliana? No, esattamente, proprio così, di origine, è un piemontese di origine, di generazione, insomma. Ah, è un piemontese che sta al caldo, diciamo. Esattamente, e sta al caldo e ha capito che il panettone... va mangiato anche tutto l'anno, ma come, l'anno. Come l'anno, per esempio, beh, col gelato l'hai detto, no? Uno già se lo immagina, una bella fetta di panettone. E poi, ecco, la cosa principale è questa, che io ho visto in questi anni, che ha scatenato la creatività dei pasticceri, perché perché vogliono fare anche un panettone leggermente diverso da quello invernale, vogliono fare più, più leggero, e allora molti hanno cominciato a farlo con la frutta, con le amarene, con la frutta di stagione come le albicocche, altri lo aggiungono con una crema ad esempio alla menta, altri ancora lo servono con delle creme molto, molto leggere. Quindi ah, ma sono varianti. Questa... Io sono un tradizionalista, devo ammettere, sul panettone, e sono di quelli che vuole anche l'uvetta e i canditi. Ma a me va benissimo, guarda, però sull'uvetta e i canditi tu metti vicino un po' di gelato, sì, sotto l'ombrellone è il massimo. Perfetto. Io sono uno di quelli che invece il panettone, a me piace moltissimo mangiarlo tipo anche a marzo, ad aprile, scaldato sulla griglietta. Ecco, se tu tipo lo scaldi sulla... Se tu lo scaldi con la, sulla griglietta così, ci metti sopra una fetta di mortadella e hai il massimo. Di mortadella? Ma con le uvette, sì, con le uvette e i canditi? Esattamente, provare per credere, oppure anche con il foie gras, se tu lo metti sopra e vedrai che otterrai un grande risultato. Ma ora si stanno inventando addirittura delle fette in questa maniera, come tu stai dicendo, e diciamo con degli strati di gelato, per cui viene fuori come diciamo la vecchia mattonella. Certo. Aveva dai due lati il biscotto e dentro il gelato. E invece dai due lati il panettone. Esattamente, proprio così. Quindi ci sono, la fantasia sta correndo a mille Senti, all'ora. Ma chi ci stesse ascoltando e gli fosse venuta voglia di assaggiare il panettone? Tipo tutti. Può venire qua in via Montorosa? Esattamente, l'ingresso libero, possono entrare tutti. I 50 pasticceri ovviamente faranno assaggiare, diciamo, fino ad esaurimento delle merci disponibili, immagino, più di quello fino non possono fare. Esaurimento uvette. Fino esaurimento canditi e poi? Lo fanno, ma molti, come ti ho detto, lo faranno assaggiare col gelato, altri con delle creme particolari, so che ce n'è uno che presenterà la crema di menta e tanti altri. Poi uno potrà anche comprarlo, nel senso ci saranno degli assaggi, poi se uno vuol portarsi a casa il panettone, appunto in questo periodo, poi portarselo al mare e il giorno di Ferragosto mangiarselo sotto l'ombrellone, va bene, perché tutti si scandalizzano, ma alle grazie, sì, il comune attaccato a Mantova, sì, il giorno di Ferragosto la tradizione è mangiare il panino col cotechino, quindi non è che sia poi così una cosa fuori, certo, del mondo. Poi io mi sono sempre chiesto, è il panettone, no, con la mortadella che mi incuriosiva, ma comunque è da provare, provalo e poi mi dirai. Lo farò. Poi io mi sono sempre chiesto, ma cosa fanno cioè le ditte che producono i panettoni dolci di Natale, i dipendenti negli altri mesi dell'anno, no? Cioè, cosa fanno? Rimangono senza lavoro? Ecco, qui il punto che io ho pensato alla stessa generalizzazione, perché in questo periodo di solito i pasticceri, anche quelli artigianali, soprattutto, hanno un periodo di fermo, perché il cioccolato d'estate non va, ovviamente, e invece negli ultimi anni tutti confermano, quelli che fanno il panettone d'estate, che hanno avuto lavoro. Basta chiedere ai produttori di farine o ai produttori di canditi, confermano che c'è stato un incremento di fatturato, il che vuol dire che il panettone funziona bene anche d'estate. Funziona il panettone, tanto che c'è un'ascoltatrice che ti vuole fare una domanda, credo. Maria Luisa da Roma. Maria Luisa? Sì, pronto. Pronto. Buongiorno. Sì, voleva intervenire, voleva fare una domanda a Davide Paolini. Sì. Prego. Non una domanda, volevo dare un suggerimento, sì, se mi posso permettere. Vada. Oltre al panettone c'è una cosa gradevolissima, che è il pandoro. Bene, fine tavola, il pandoro, con uno strato di burro e gorgonzola, vi assicuro che fa ritornare l'appetito anche dopo il pranzo di Natale. Oddio, Maria Luisa, grazie. Davide, non so se... Io sinceramente non amo molto il pandoro, preferisco... No, ma non mi deludere così l'ascoltatrice. Anch'io sono della squadra panettone. Preferisco le uvette e i canditi. Il pandoro lo trovo troppo burroso. Fra l'altro lei ci mette il burro e poi lo gonzola sopra. A questo punto il colesterolo sale alle stelle, sicuro, non ci sono dubbi su questo. Comunque, è un'altra indicazione. No, non vogliamo esagerare, perché d'estate mettere il gorgonzola col burro e poi il pandoro, insomma, lì andiamo molto. Stai cercando di bloccare la concorrenza, perché sulle spiagge ci sarà il panettone di Paolini versus il pandoro con burro e gorgonzola. Sì, ma io ho una carta segreta, il prossimo anno lancerò il torrone ghiacciato. Cosa? Torrone ghiacciato il prossimo anno. Ah, però, da spiaggia, con lo stecco? Esattamente, sì. Bellissimo. Proprio così. Il ghiacciolone. Va bene, grazie. Volevo aggiungere solo una cosa, sì, che ci sono tante cose anche per i bambini. oggi e domani, giusto, in giusto, via Monterosa al 91. Ci sono dei giochi per i bambini, si fa merenda. Quindi venite con le famiglie, venite con le famiglie. Venite con le famiglie. Bene, grazie. Grazie Davide Paolini, ciao. Grazie Davide. Ciao. Appuntamento alle 15 oggi. Qua alle 15 e poi anche domani per tutta la giornata, a partire dalle 10 domani. Quindi domani si fa anche colazione, pranzo e poi la merenda. E ci siamo anche noi, ci siamo anche noi domani. Va bene, è tutto. Noi vi salutiamo, ringraziamo Andrea Piano, autore insieme a noi del programma, Miriam Lucchetti, Claudia Schiattone in redazione, Peter Bescapè oggi in regia. È la penultima puntata, domani l'ultima, ci salutiamo con la lacrimuccia, ci vediamo al